Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. A Parigi c'è un quartiere periferico dove l'unico fast food esistente ha deciso di proporre solo cucina halal, accontentando le richieste di molti immigrati musulmani, ma scatenando proteste da parte di chi vorrebbe avere la possibilità di scegliere. Nessun bar in vista, neppure tipiche brasserie con i tavolini fuori. Qui a La Courneuve, a due passi dalla Cité des 4000, ammasso di alloggi sociali e sinonimo di degrado e delinquenza, c'è solo un quick. Il ristorante della catena di fast food, risposta francese al McDonald's, è l'unica possibilità di mangiare in famiglia in santa pace o per una serata fra amici. C'è pure il drive-in gettonatissimo, atmosfera da sobborgo americano, ma è la periferia nord di Parigi. Quel quick da settembre diventerà tutto halal. Proporrà solo carne e alimenti conformi alla tradizione musulmana. Un business che tira in Francia. Antidoto contro la crisi. Quick aveva già convertito all'halal 8 dei suoi punti vendita alla fine dell'anno scorso, in quartieri con una forte concentrazione di musulmani, alle porte di Parigi o altrove. In sordina, per non scatenare polemiche, che però alla fine erano scoppiate. Marine Le Pen, figlia ed erede di Jean-Marie, astro nascente dell'estrema destra, aveva giudicato l'iniziativa inammissibile. Obbliga i clienti a versare una tassa alle organizzazioni islamiche di certificazione. La carne halal, in effetti, viene macellata secondo determinati riti, dissanguata completamente, in presenza di un sacrificatore autorizzato dalle moschee. Quick, intanto, è andato avanti, senza comunicare, ma si sa che i suoi ristoranti halal vanno benissimo. I musulmani vengono più volentieri e gli altri si adattano. La pancetta? Sostituita dal tacchino affumicato. Per il resto, l'hamburger halal ha praticamente lo stesso sapore. Da settembre altri 14 quick diventeranno tout halal. Pure a La Courneuve, dove i due terzi dei 35.000 abitanti sono musulmani e dove la vicenda sta diventando un caso nazionale. Gilles Pou, sindaco comunista dal 1996, fa resistenza. Capisco offrire la possibilità di un menù halal, osserva, ma farne un'esclusività lo trovo ingiusto. Non ha paura di schierarsi con Le Pen e compagnia. Non è una questione di destra o di sinistra. Pou non è il solito comunista francese anacronistico, ma un politico pragmatico che ha saputo migliorare quella distesa di casermoni che è la Cité des 4000, imposti fra gli anni 50 e 60, quando La Courneuve era piena di industrie, poi chiuse una dopo l'altra, mentre il quartiere, popolato quasi esclusivamente da immigrati, diventava un pericoloso serbatoio di frustrazioni. Negli ultimi anni molti palazzi sono stati fatti saltare, sostituiti da ordinate villette a schiera. Ma la situazione sociale è quella che è. Il 90% dei residenti del comune ha un reddito inferiore alla media della regione di Parigi e il 17% è disoccupato. Nel tempo, in questo contesto economico, si è verificato un ritorno all'Islam, pure radicale. Per il sindaco, un quick halal non fa altro che confermare un comunitarismo che non corrisponde alla mia idea di Francia. Il gruppo si giustifica. Non offre altri menù, perché non si possono mescolare cibi puri con quelli impuri nello stesso locale. Soprattutto l'organizzazione delle forniture, conclude Pou, comporterebbe spese aggiuntive. La logica di questi signori è solo economica. A loro non importa nulla delle conseguenze sulla città. Il business è business, e quello halal, in Francia, raggiungerà nel 2010 i 5,5 miliardi di euro, in crescita del 22,2% sull'anno scorso. Al di là della carne si vende di tutto, dagli omogeneizzati alle pizze congelate. A La Courneuve, ovviamente, non si parla d'altro. A lì, 18 anni e catena d'argento al collo, sta uscendo dal quick. La conversione halal è una buona cosa. Un problema per gli altri? Non lo so, ci devo pensare. Per Celia, 20 anni, halal è una truffa. Te lo vendono come tale e poi, in realtà, non lo è. E paghi pure di più. Risentita Monique, 70 anni. Sono cattolica e vorrei scegliere. Ormai qui non si trova più carne di maiale. difficile pure acquistare giornali francesi. I problemi di La Courneuve sono altrove. Lo pensa anche Mohan, alla guida di un'associazione di pensionati, per lo più algerini, che giocano a bocce all'ombra dei palazzoni dei 4000. Indica perplesso la torre Balzac in fase di smantellamento. Ma dove un giovane è stato ammazzato in maggio a fucilate e una madre di famiglia è stata di recente ferita alle gambe, a poche centinaia di metri dal Quick, pulito e impeccabile, surreale oasi di pace, fra pochi giorni solo e rigorosamente halal. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Leonardo Martinelli, Islamico, l'unico fast food, Quick spacca la Francia, dal Sole 24 Ore del 25 agosto. Letture di Radio 24. Nei mesi scorsi, la notizia che i dipendenti del teatro La Scala erano entrati in sciopero permanente contro il decreto di riforma degli enti lirici aveva fatto il giro del mondo. Ma si tratta di un mondo fortemente sindacalizzato e con una produttività notevolmente inferiore rispetto a quella degli altri teatri lirici europei, scrive sulla rivista inglese BBC Music Magazine la blogger Opera Chic, una melomane americana residente a Milano. E l'unico modo per farlo sopravvivere è riformare completamente il sistema di finanziamento pubblico. La situazione è disperata, ma non seria. Ennio Flaiano, giornalista e cosceneggiatore della Dolce Vita di Fellini, riassumeva abbastanza bene le idiosincrasie dell'Italia moderna. E a quanto pare l'opera buffa che si sta svolgendo nei teatri d'opera italiani, finanziati dal governo, fortemente sindacalizzati e spesso in perdita, sembra confermare ancora una volta l'aforisma di Flaiano. Il Teatro alla Scala, dal quale nel 2005 si era dimesso Riccardo Muti, guida la carica contro ogni tentativo da parte del governo di riformare il sistema che attualmente regola, per così dire, i 14 enti lirici italiani. Per tutta la primavera e fino all'inizio dell'estate, scioperi e dimostrazioni hanno portato a cancellare alcune esibizioni, mentre incursioni dei sindacati hanno imbrattato le facciate dei più fotogenici teatri d'opera con poster colorati. I lavoratori della Scala hanno anche inscenato un finto funerale, trasportando casse da morto con la scritta «Cultura». I sindacati sono scesi in piazza contro il decreto Bondi, che ha recentemente imposto una serie di tagli ai budget dei teatri d'opera. Molti osservatori ritengono che in un periodo di crisi economica che ha intaccato i teatri d'opera a livello mondiale, i battaglieri enti lirici italiani sembrano sfuggire da ogni controllo, come sostiene anche Marco Tutino, direttore generale del Teatro Comunale di Bologna, che afferma che i teatri d'opera stanno correndo a 200 km all'ora contro un muro di mattoni. E lo dimostra il fatto che tra maggio e giugno di quest'anno i dimostranti della Scala hanno annullato mezza dozzina di spettacoli. Gli italiani hanno per le prime dei teatri d'opera la stessa venerazione che hanno per il calcio, ma nemmeno quelle più importanti sono state risparmiate dai diktat dei sindacati. La prima dell'Oro del Reno, che avrebbe dovuto inaugurare il primo ciclo completo dell'Anello dei Nibelunghi dagli anni 60, è stata cancellata. La prima del Faust di Gounod, diretta da Eimuntas Neikrosius, è invece andata in scena, ma sia il coro che gli orchestrali si sono presentati con i vestiti di tutti i giorni e si sono rifiutati di seguire le indicazioni dei direttori di scena. E le prime del Romeo e Giulietta di Prokofiev e del Barbiere di Siviglia, con Diego Flores, sono state entrambe annullate. Ma questi scioperi creano consapevolezza degli obiettivi dei sindacati? Oppure non fanno che allontanare lo sparuto numero di melomani che ha diligentemente mantenuto i teatri d'opera? Il direttore della SLCCGL, Silvano Conti, ha recentemente chiarito le iniziative del suo sindacato. Il pubblico capisce che attraverso le nostre battaglie lottiamo per salvare il sistema culturale minacciato dai tagli alle nostre risorse. C'è un grande sostegno e molta comprensione. Mentre risuonava ancora l'eco degli inviti a scioperare da parte della SLCCGL, il decreto Bondi è stato convertito in legge il 29 giugno dal Parlamento italiano, con disapprovazione dei sindacati e delle direzioni dei teatri d'opera, nonostante una serie di emendamenti sui punti più controversi. Ma restano ancora 18 mesi di gestazione prima che diventi effettivo, lasciando quindi spazio per ulteriori trattative. Ecco in breve i principali provvedimenti. Gli attuali bonus per i dipendenti degli enti lirici saranno erogati solo se questi ultimi riescono ad avere un bilancio in attivo. le trattative tra enti lirici e sindacati avranno un maggior controllo da parte del governo. I ballerini potranno andare in pensione a 45 anni, ma sarà obbligatorio per i ballerini andare in pensione a 47 anni per le donne e 52 per gli uomini. Verrà concessa l'autogestione ai 14 enti lirici solo se riescono a dimostrare che la propria situazione finanziaria gode di buona salute. Alla fine di tutte le manovre, le vuote minacce e le inutili trattative, l'ordine esecutivo del decreto Bondi è il solito affare del governo italiano. Sulla carta fa parte di un progetto di modernizzazione che dovrebbe rendere il sistema di finanziamenti più orientato verso il mercato. In realtà si limita a tagliare alcuni finanziamenti e potrebbe rendere più difficile per i teatri d'opera spendere soldi con i ritmi vorticosi ai quali sono abituati. I deficit annuali dei teatri d'opera italiani sono spaventosi. Dal 2004 si aggirano tra i 9 e i 32 milioni di euro. Quasi tutti i teatri d'opera italiani spendono dall'80 al 90% del loro budget per pagare i dipendenti, il che lascia poco spazio per tutto il resto. Quello che tutti sanno, ma nessuno vuole ammettere, è che i politici italiani non vogliono che i sindacati abbiano voce in capitolo su come vengono gestiti gli enti lirici, perché preferiscono avere il controllo su tutto. Ma il sistema di finanziamenti deve cambiare se si vuole che i teatri d'opera sopravvivano. Walter Vergnano, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, ha cercato di trovare nuove strategie per attirare fondi ed è convinto che i teatri d'opera debbano dedicare meno attenzione ai soldi che provengono tramite l'azione dei sindacati e cercare più investitori privati, nonostante gli inconvenienti del sistema fiscale italiano. Vergnano conosce la difficoltà di attirare nuovo pubblico e ammette che c'è bisogno di sviluppo. Parlando con un collega al Covent Garden di Londra, dice: «Mi sono reso conto che la situazione in Italia è preistorica, soprattutto quando si guarda i rapporti non con le società, ma con i privati e gli appassionati d'opera che hanno la possibilità di fare delle donazioni. È necessario creare una rete di relazioni non solo con le società e con le banche, ma anche col pubblico. Bisogna far capire al pubblico che è una parte del teatro e non un semplice spettatore pagante. Se solo la soluzione fosse così semplice». Purtroppo i teatri d'opera italiani sono danneggiati da una produttività che è scarsa se confrontata con le controparti europee e americane. In maggio la stampa ha pubblicato un confronto tra la produttività dei 7 maggiori teatri d'opera italiani nel periodo 2009-2010 e quella dei 7 maggiori teatri d'opera stranieri. In cima alla classifica c'era la Scala di Milano, che nella stagione 2009-2010 ha messo in scena 12 opere, 7 nuove produzioni per un totale di 105 spettacoli. Dal totale sono esclusi i recital, i concerti sinfonici e i balletti. È sufficiente confrontarli con i due leader internazionali. La Staatsoper di Vienna, nello stesso periodo, ha messo in scena 48 opere, 4 nuove produzioni e 226 spettacoli, mentre l'Opernhaus di Zurigo ha sfornato 36 opere, 12 nuove produzioni e 203 spettacoli. Lo specchietto per le allodole che usano i sindacati e i direttori dei teatri d'opera è la disponibilità di finanziamenti pubblici. Germania, Francia e Austria ricevono più fondi pubblici dal governo e quindi la loro produzione è maggiore. Ma la verità è che in assenza di una significativa riforma degli enti lirici, il denaro pubblico finirebbe per essere sprecato da teatri lirici inefficienti, come è avvenuto in passato. Di conseguenza, qualunque legge che non cercasse di riformare seriamente la struttura degli enti lirici sarebbe destinata a fallire, perché la scarsa produttività può andare bene per i sindacati appartenenti alla vecchia scuola, i cui iscritti sarebbero tutti contenti, liberi di fare altri lavori e di spendere più soldi per proprio conto. Ma va anche bene per i politici che sostengono che il sistema sia cattivo e che non meriti quindi finanziamenti pubblici. E tutto questo rende i teatri d'opera ancora più dipendenti dal denaro pubblico e i politici ancora più potenti. Oltre a cercare più finanziamenti privati, cos'altro possono fare i teatri d'opera? Non possono aggiungere altri posti a sedere e non possono aumentare il costo dei biglietti, già gonfiati a sufficienza. Qualcuno sta cercando di spostare l'attenzione sulla programmazione. Stefan Listner, sovrintendente della Scala dal 2005, sta provando a riconquistare i melomani italiani dopo le critiche ricevute per aver snobbato il repertorio italiano negli ultimi anni e per la mancanza di cantanti italiani. In risposta ha inserito nella prossima stagione 9 opere italiane, limitando a 6 il numero delle opere di autori stranieri. Sta anche cercando di riportare in Italia i grandi maestri e cantanti che non vogliono venire alla Scala perché il pubblico è puntiglioso, conosce bene le opere e non ci mette niente a fischiare. Ed è per questo che hanno paura a cimentarsi con l'opera italiana. E se l'orchestra sciopera e gli spettacoli vengono cancellati, naturalmente i cantanti non vengono pagati. È inoltre preoccupante il recente fenomeno di cantanti nati in Italia che per proseguire le loro carriere emigrano verso i più verdi pascoli dei paesi vicini. Maggiori guadagni, un lavoro più stabile e l'assenza di sindacati che organizzino scioperi stanno attirando verso paesi stranieri i giovani diplomati dell'Accademia dei Conservatori Italiani. Forse alla fine l'unica soluzione per l'Italia è quella di seguire i cantanti e abbandonare la nave. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Opera Chic, Madhouses, dal numero di settembre del mensile BBC Music Magazine.